giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vertenza Varsila dopo la fumata nera di ieri nel vertice ministeriale. I sindacati hanno indetto uno sciopero per lunedì mattina per protestare contro le proposte avanzate dall'azienda. Definito irresponsabile l'atteggiamento dell'azienda stessa. Protezione civile regionale ancora in prima linea in Emilia Romagna a supporto della popolazione locale colpita dall'alluvione. L'attuale vescovo di Forlì, Monsignor Livio Corazza, pordenonese, racconta i momenti più critici dell'emergenza e l'impegno dei giovani romagnoli per ripulire le strade. Cade con la bicicletta nel fosso a Roveredo in Piano, in condizioni gravi, un 56enne rianimato dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Udine. Si tratta di una fuoriuscita autonoma provocata da un malore. Il turismo culturale legato alla volontà di scoperta della cultura del territorio è la prima motivazione di visita in Italia, ma non in Friuli Venezia Giulia, anche se in crescita. In regione si continuano a preferire le mete balneari. Sono numeri da record quelli relativi all'ultima stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. I dati sono stati illustrati poco fa in un incontro al Teatro Rossetti di Trieste. Al Via Trieste il Festival di Orticoltura Urbana Fiori e Radici, che mira a divulgare la sostenibilità dell'orticoltura urbana con creatività. Le 12:31 minuti e 40 secondi, buongiorno da Giorgio Beaz e Dario Ronzoni a condurre anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 maggio. In apertura ancora gli sviluppi della vertenza Varsila dopo la fumata nera di ieri. Nel vertice ministeriale i sindacati hanno indetto uno sciopero per lunedì mattina proprio per protestare contro le proposte avanzate dall'azienda e nella nota hanno definito irresponsabile l'atteggiamento di Varsila che, dicono, mina la continuità produttiva e occupazionale del sito oltre a non offrire nemmeno rassicurazioni a chi invece continuerà a lavorare. Ma per le ultime novità abbiamo in studio con noi Antonio Di Bartolomeo. Allora, che cosa ci racconti oggi sulla vertenza Varsila? Sì, riparte la mobilitazione dei sindacati su Varsila dopo la tregua sancita. A novembre torna alta la tensione tra il gruppo finlandese e rappresentanti dei lavoratori, ma anche con le istituzioni e Confindustria. Tutte le controparti hanno definito inconsistenti le due offerte presentate, proclamato, come dicevi, lo stato di agitazione, lunedì lo sciopero e l'assemblea davanti ai cancelli. Si deciderà in quella sede se e quali iniziative intraprendere ora, azienda che viene definita inadempiente da CGIL, CISL e UIL. Si chiede al governo un impegno diretto nell'avvertenza che, coinvolgendo nuovi soggetti industriali, pubblici e privati, in sostanza, i sindacati vorrebbero una sorta di affiancamento a Varsila. Non vogliono più lasciare che sia solo l'azienda a trattare, dato l'interesse pubblico della vicenda. Non è stata digerita la fuga di Christoph, la solida azienda austriaca pronta a subentrare. Su questo abbandono i sindacati e istituzioni sospettano che ci sia una responsabilità di Varsila per una richiesta economica eccessiva, circostanza negata dai diretti interessati. Le due offerte sono state presentate da IMR Industries, settore della componentistica auto, e da H2 Energy, una giovane azienda che realizzerebbe elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e che potrebbe essere affiancata da Mitsubishi con la fabbricazione di turbine per energie rinnovabili. Il prossimo confronto sindacale con Varsila sarà in regione. Il 29 maggio si discuterà del piano industriale per quelle attività che resteranno a Trieste e che dovrebbero mantenere impiegati circa 600 addetti. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo e noi cambiamo argomento. Protezione civile regionale ancora in prima linea in Emilia-Romagna a supporto della popolazione locale colpita dall'alluvione. Ieri il salvataggio di due anziani rimasti isolati. Le squadre di volontari sono anche oggi al lavoro per ripristinare la viabilità interrotta. L'attuale vescovo di Forlì, Monsignor Livio Corazza, pordenonese, racconta i momenti più critici dell'emergenza e l'impegno dei giovani romagnoli per ripulire le strade. Certamente è il momento della preoccupazione, della comunicazione che riguarda le cose da fare, ma anche la preoccupazione per il futuro. Sono rimasto scioccato anch'io quando alle 20 di martedì 16 la strada che era davanti al seminario dove abito si è trasformata da un momento all'altro in un torrente con l'acqua che correva velocissima e poi sempre di più si è allargato fino a invadere il seminario e tutto è scantinato. Quindi per 36 ore la corrente era fortissima, preoccupazione, però anche tanta fiducia, cioè io ho visto già ieri quando sono uscito dall'isolamento, attraversato le strade, c'era già evidentemente l'attività frenetica di chi pulisce, mette a posto, sistema e si prepara perché questo si spera non si ripeta. Abbiamo fatto ieri dei briefing con la Caritas, con Comunione Liberazione, Azione Cattolica, Gesci. Devo dire che c'è stata una generosità anche da parte dei giovani, in particolare molto forte. Ieri sullo stesso parcheggio dove c'era l'acqua di mezzo metro martedì e mercoledì, ieri c'erano i ragazzi che spalavano fango, ma insomma siamo stati colpiti ma non siamo vinti. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. La Regione Emilia-Romagna ha aperto una raccolta fondi per venire incontro alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il conto corrente con il codice IBAN è stato aperto presso Unicredit ed è intestato all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. I versamenti vanno effettuati con la causale alluvione Emilia-Romagna. Il tempo, cielo da poco nuvoloso a coperto in tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 16 gradi e mezzo con bora da est e nord-est a 34 km orari con raffiche che hanno raggiunto i 71 km orari. A Udine 19 gradi, a Pordenone 18 gradi e mezzo, a Gorizia 18 gradi, a Tolmezzo 16 gradi e mezzo, a Tarvisio 11 gradi e mezzo, a Forne di Sopra 12 gradi, a Sappada e Piancavallo 10 gradi, in montagna sullo Zoncolan 5 gradi, su Lussari 2 gradi e mezzo, in costa a Lignano 18 gradi e mezzo e a Grado 18 gradi. Ma quali sono le previsioni per questo fine settimana? Sentiamo Gabriele Fasano, previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel weekend avremo sul Mediterraneo centro-occidentale ancora la prevalenza della depressione che ha portato insomma perturbazioni negli scorsi giorni. Sulla regione, in realtà, che rimarrà un po' in margine, avremo variabilità. Nella giornata di sabato, in quota appunto questa depressione porterà delle correnti da sud-est abbastanza umide, quindi sabato avremo cielo in genere nuvoloso, forse con qualche spazio più variabile in pianura e sulla costa. Nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche debole pioggia in montagna, forse anche qualche rovescio, che non si esclude possa includere un po' anche le zone di pianura, anche se con probabilità inferiore. Soffierà ancora bora, che sarà moderata in pianura e sulla costa, ma tratta anche sostenuta nella zona di Trieste. Le temperature massime saranno in aumento e probabilmente toccheranno i 25 gradi in pianura. Per quanto riguarda domenica, avremo probabilmente una giornata invece più soleggiata, infatti avremo la prevalenza di correnti questa volta da est più secche in quota. Giornata più soleggiata probabilmente, ma che nel pomeriggio vedrà di nuovo la possibilità di un pochino di instabilità, specialmente in montagna, con qualche locale rovescio, in realtà comunque con bassa probabilità ma non escluso, che potrebbe forse anche interessare localmente l'alta pianura. La giornata di domenica avremo ancora bora, moderata o sostenuta specialmente nella zona di Trieste, appunto moderata altrove. Le temperature massime domenica saranno decisamente miti, insomma anche al di sopra dei 25 gradi. 43 associazioni di volontariato riunite a Pordenone a difesa della sanità del Friuli Occidentale in un documento chiedono una conferenza urgente dei sindaci del territorio con regione, azienda sanitaria e CRO per condividere criticità e produrre proposte a tutela della salute pubblica. Hanno elaborato un documento presentato oggi e già inviato a tutti i sindaci del Friuli Occidentale e ai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione in cui chiedono con urgenza una conferenza aperta dei sindaci per discutere i gravi problemi della sanità pordenonese. La richiesta arriva da 43 associazioni di volontariato riunite a Pordenone, sentinelle di problemi e mancanze che chiedono di essere ascoltate con intento, dicono, costruttivo e non polemico. Luciano Bortulus, presidente del Comitato Amici di Abele Casetta. Le richieste sono tre: che l'ospedale di Pordenone sia garantito per la sua eccellenza di hub, perché abbiamo veramente delle eccellenze nel nostro ospedale, che la sanità pordenonese in senso lato sia tutelata e ho detto anche rispettata, e poi che questa storia del CRO che va avanti da anni ed è incredibile sia considerato il centro di riferimento regionale dell'oncologia e della ricerca. Se lo merita, anche perché stiamo in attesa di avere i famosi protoni che però sono molto molto rallentati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto stamattina al Quirinale la presidente della Slovenia Natasha Pirc-Musar. Si tratta del primo incontro ufficiale tra i due presidenti. Mentre stiamo andando in onda è in corso un colloquio a porte chiuse. Diversi i temi sul tavolo, dalle relazioni bilaterali alla situazione in Ucraina e nei Balcani occidentali, da Gorizia a Nova Gorizia, capitale europea della cultura, alla situazione delle minoranze con la rappresentanza parlamentare slovena garantita e la restituzione del Narodni Dom di Trieste alla comunità slovena. Domani la presidente slovena sarà a Napoli per incontrare i militari sloveni lì di stanza, mentre lunedì sarà al Vaticano per una visita a Papa Francesco. La cronaca con due incidenti stradali, quello più recente accaduto nella tarda mattinata. Un uomo è stato soccorso dai sanitari per le ferite riportate dopo un incidente stradale verificatosi lungo la statale Pontebbana, nel tratto che prende il nome di Via Codroipo, nel territorio comunale di Zoppola. E per causa in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati due camion e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'eli soccorso. Anche i vigili del fuoco hanno operato con il personale sanitario. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico dopo una lunga manovra di estricazione. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo è stato ricoverato in codice giallo ma cosciente. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine un ciclista di 56 anni finito in un fosso ai bordi della strada Roveredo in Piano in via 20 settembre. L'incidente è stato segnalato da un passante al 112 che ha allertato la struttura di emergenza sanitaria e i carabinieri. Sul posto sono giunte ambulanza, automedica ed eli soccorso. I sanitari lo hanno rianimato e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria Misericordia perché le sue condizioni non hanno consentito il trasporto in elicottero. La prognosi è riservata. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, si è trattato di una fuoriuscita autonoma provocata da un malore del ciclista. Nei giorni scorsi, nella zona di San Giacomo a Trieste, i carabinieri hanno ritrovato e condotto in arresto un uomo, cittadino straniero di 28 anni, che verso la fine dell'agosto del 2022 era stato sottoposto a misura cautelare. Secondo le indagini, nell'agosto appunto dello scorso anno, l'uomo aveva commesso un furto ai danni di un cittadino triestino, rubandogli il portafoglio che conteneva una somma consistente appena prelevata. Era stato subito denunciato e individuato grazie alla visione dei filmati della zona, ma nonostante la misura cautelare emessa dal GIP, visti i precedenti, si era reso irreperibile fino a pochi giorni fa. Lavoro nero. Nel corso degli ultimi controlli, i carabinieri della tutela del lavoro del comando provinciale di Pordenone hanno emesso sanzioni per 30.000 euro per avere riscontrato una serie di irregolarità. A Sacile è stato sospeso un ristorante etnico che impiegava personale in nero. Ad Aviano un bar è stato sanzionato per l'impiego di un lavoratore senza contratto per diversi mesi continuativi. Una rivendita di prodotti artigianali a Casarsa aveva al suo servizio un lavoratore in nero e irregolare sul territorio. Sanzioni a Cordenonse per il titolare di un'attività commerciale che non aveva adempiuto ai controlli di vigilanza in materia di lavoro, mentre a Pordenone una ditta edile impiegava personale lavorativo senza contratto. Fincantieri costruirà per la US Navy una nuova fregata, la quarta nell'ambito del programma Constellation. A renderlo noto il gruppo in una nota sottolineando che il Dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri Marinette Marine il contratto per la costruzione della nave che ha un valore di circa 526 milioni di dollari. Il contratto per la prima fregata e l'opzione per 9 ulteriori navi era stato siglato nel 2020 e ha un valore complessivo di 5 miliardi e mezzo di dollari, comprensivo di supporto post vendita e addestramento degli equipaggi. Sono positivi i numeri del bilancio 2022 approvato dall'Assemblea dei Soci di LEF, l'azienda digitale modello fondata nel 2011 da Confindustria Alto Adriatico e McKinsey. Indicatori positivi che si innestano nelle previsioni che il presidente Michelangelo Agrusti aveva formulato a cavallo dei due esercizi precedenti, parlando di passaggio intermedio di un percorso pluriennale fatto di investimenti in risorse umane e infrastrutture necessarie per diventare riferimento nazionale e internazionale nella creazione di competenze, mentalità e comportamenti per creare manager e tecnici. Con la ricorrenza dell'ascensione ieri e la calata dei primi turisti in arrivo dall'Austria e dalla Germania, si può dire ormai cominciata la stagione turistica estiva. Una regione, il Friuli Venezia Giulia, dove il turismo naturalistico e soprattutto quello balneare è preferito a quello culturale, seppur quest'ultimo in crescita. È la prima motivazione di visita in Italia, ma non in Friuli Venezia Giulia, anche se in crescita. Parliamo di turismo culturale, ovvero quella visita legata alla volontà di scoperta della cultura materiale e immateriale di un territorio. Secondo Damiano De Marchi, esperto di turismo e destinazioni, che ha curato uno studio di settore, se in Italia rappresenta il 48% delle notti vacanza, in Friuli Venezia Giulia la prima tipologia di turismo è balneare, che raccoglie quasi tre quarti dei flussi turistici. Il turismo culturale ha una quota più ridotta del 20%, scesa nel 2021 a causa della pandemia al 10%. Una delle ragioni è infrastrutturale. L'alta velocità, che fa fatica ad arrivare nella nostra regione, influisce molto nella possibilità di, come dire, di essere fruibili e accessibili. Trieste, con un pernottamento su due, e Udine si spartiscono da soli il 70% della quota di turismo culturale. Il restante 30% si concentra prevalentemente nella parte orientale della regione. I dati inediti più recenti forniti dall'assessore regionale di competenza, Sergio Mediobini, mostrano una crescita di presenze per i principali centri culturali della regione nel 2022 rispetto al 19. Trieste più 11%, Udine più 0,5%, Gorizia più 15%, Pordenone più 5, Aquileia più 27,6%, Cividale più 3,9%, Palmanova più 36%. Più si riesce a lavorare in ottica di sviluppare nuovi modi di raccontare, siccome si parla di promozione, e di far conoscere il territorio, più si riesce a ragionare sia in termini di nuove persone che possono venire a visitare luoghi, diciamo, minori. Per il 2023 De Marchi stima un aumento delle tariffe medie per camera in regione più contenuto rispetto al resto d'Italia, più 10% rispetto al dato nazionale del 19%. C'è ancora molto da fare, in particolare riuscire a valorizzare quelli che sono le grandi tesori del nostro territorio, che non siano fruibili solo a un turista di passaggio, ma che riescano ad essere fruibili a persone che vengono proprio per quella motivazione, soprattutto nella parte occidentale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato firmato a Palazzo da Ronco a Udine il decreto per l'assegnazione di alcune deleghe della giunta De Toni, rimaste precedentemente scoperte. A Rosi Toffano, già assessora d'associazionismo, partecipazione ai quartieri e al benessere animale, è stata aggiunta la delega ai servizi cimiteriali, mentre servizi demografici e statistiche si aggiungono alle deleghe dell'assessora Arianna Facchini, oltre a quelle ai giovani e alle pari opportunità. Oltre alle deleghe ad ambiente ed energia, l'assessora Eleonora Meloni si aggiudica anche la delega ad orti urbani e contratti di fiume. Greta Minisini, 26 anni, di Maiano, è la nuova presidente di Giovani Imprese Col Diretti Udine. Diplomata all'Istituto Tecnico Agrario Il Tagliamento di Spilimbergo, ha conseguito la laurea triennale in allevamento e salute animale e poi la laurea magistrale in allevamento e benessere animale all'Università di Udine. Titolare dal 2021 dell'omonima azienda, un'impresa zootecnica alla quarta generazione di bovini da latte, ha da subito avviato i lavori di ristrutturazione e modernizzazione con tanto di installazione di un robot di mungitura, secondo un progetto, spiega la stessa Minisini, che aveva come obiettivo principale il miglioramento del benessere animale e l'ottimizzazione dal punto di vista funzionale di una struttura già esistente. Minisini è stata eletta in occasione dell'Assemblea Provinciale Giovani Impresa Col Diretti Udine, convocata nell'agriturismo Mulino delle Tolle. Questa sera il movimento Donna Impresa di Confartigianato Udine assegnerà un premio alle imprese femminili del territorio che più si sono distinte per innovazione, welfare, sostenibilità e digitalizzazione. Se ne è parlato questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione con l'amministratrice di una delle aziende candidate. Una storica famiglia di mugnai che ha mandato avanti la propria azienda di padre in figlio fino a quando nel 2010 la linea di successione è passata in mano femminile. Le sorelle Sara e Anna Pantanali sono ora le amministratrici di un molino di Trivignano Udinese che produce farina artigianale destinata a pizzerie, panifici, ristoranti e consumatori finali. Siamo entrate nel consiglio di amministrazione nel 2020 e quindi ora possiamo dire che siamo un consiglio tutto al femminile, un CDA in rosa. La loro è una delle realtà scelte da Confartigianato Udine per partecipare a un premio per le imprese femminili che si distinguono per innovazione e sostenibilità. Alcuni progetti, attività si sviluppano ponendosi delle domande e delle domande che ci dicono che cosa lasciamo agli altri, che cosa facciamo per noi stessi, che cosa lasciamo alle generazioni future. Quindi facciamo farina cercando di farlo in modo diverso, ponendoci queste domande e cercando di dare risposta anche attraverso delle collaborazioni e delle alleanze nel territorio. Essere donne imprenditrici però non è sempre facile. Alle volte dobbiamo metterci molto più impegno per far valere la nostra credibilità o per essere guardate con lo stesso modo in cui verrebbe guardato un uomo a parlare delle stesse cose, quindi a parlare di contratti, a parlare di grano, a parlare di trattative. Conciliare la vita privata con quella professionale è complesso per tutti, ci raccontano, imprenditori compresi. Sicuramente bisogna lavorare su se stessi interiormente per accettare che si fa il meglio che si può da una parte e dall'altra. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via le 3 giornate di laboratori partecipativi per ripensare il rione della Maddalena a Trieste insieme ai residenti e ospiti internazionali e il progetto Mad Lab, laboratorio Maddalena, promosso da Adesso Trieste e vincitore del bando internazionale dell'European Municipalist Network. 3 giorni di approfondimento che iniziano alle 15.30 nella sede del CEST in via del Veltro e si discuterà sulle iniziative del rione e sui possibili processi di rigenerazione urbana. Alle 21 poi i partecipanti saranno guidati in un'esplorazione urbana nel giardino Pinkerle, sempre in via del Veltro. Da oggi parte a Trieste il Festival di Orticoltura Urbana Fiori e Radici, organizzato da Ugora Urban Gardening Ora, che mira a divulgare la sostenibilità dell'orticoltura urbana con creatività tramite workshop, talk, concerti, mostre e proiezioni di film. Il fulcro della manifestazione sarà la Sara Fitke di Piazza Piccola a Trieste. Si comincia alle 16 con lo spettacolo di burattini di Maurizio Bianco, a seguire la presentazione delle 3 giornate. Noi ne abbiamo parlato con Morena Pinto di Ugora, che ci ha spiegato cos'è l'orticoltura urbana. L'orticoltura urbana è un modello che noi come Ugora, come gruppo spontaneo, vogliamo diffondere non solamente in città. Al momento noi abbiamo 3 orti, uno a San Giusto, uno in fase di avvio al Ferdinandeo e un altro in zona Campanelle, in via Chiusura dell'Acqua. E sostanzialmente con il materiale riciclato andiamo a realizzare delle vasche dove appunto piantiamo sostanzialmente in base alla stagione in maniera condivisa. Questa è un po' l'idea poi dell'orto comunitario che vogliamo diffondere, quindi un po' dissociarsi dall'idea del proprio orticello, della propria dimensione privata, ma far sì che tutti possano partecipare alle nostre attività. E anche lo stesso momento di raccolta per noi è un momento comunque collettivo. Come si fa a partecipare? Basta contattarci alla nostra mail che è ugora.fibg@gmail.com. E noi comunque abbiamo degli incontri settimanali, quindi lì decidiamo un po' come dividerci, come gestire le diverse attività, anche in base alle propensioni personali, cioè magari alcune persone possono essere più interessate all'aspetto organizzativo, altre all'aspetto pratico, quindi a mettere proprio le mani in terra. Quindi non è solo una questione pratica, ma è anche una forma di comunicazione della natura, esatto, far capire esatto il paesaggio. In questo sì senso c'è anche il festival. Il festival è nato grazie a un bando, si sembrava importante comunque diffondere e veicolare questo messaggio, il messaggio dell'orticoltura urbana, della sostenibilità ambientale, anche attraverso eventi culturali. E questo messaggio secondo voi sarà recepito? Ma secondo me la varietà e l'eterogeneità degli eventi fa sì che molte persone, diciamo anche diverse, con interessi diversi, si avvicinino comunque al nostro progetto, comunque ai nostri valori. Sono numeri da record, quelli relativi all'ultima stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. I dati sono stati illustrati poco fa in un incontro al Rossetti di Trieste. Un bilancio da record è quello dell'annata 2022-2023 per il Teatro Rossetti di Trieste. La prima stagione del post-pandemia ha fatto registrare infatti il primato di sempre negli incassi totali e il numero di spettatori più alto degli ultimi 10 anni, oltre al successo degli spettacoli di produzione, come hanno illustrato il presidente e il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Francesco Grambassi, presidente Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. 162.000 presenze nell'arco di questa stagione all'interno del Politeama Rossetti. Abbiamo battuto il record storico di incassi di più di 1 milione di euro. Quindi con un incasso di 4.776.000 euro bisogna tenere conto anche del numero di spettatori unici, che sono oltre 60.000. Quindi 60.000 diverse persone hanno varcato il cancelli del Politeama Rossetti per la stagione 22-23. Pensare di arrivare a una situazione così brillante, così positiva, in tempi così rapidi dopo il Covid, non era prevedibile neanche nei nostri sogni più rosei. Una stagione che ha registrato medie di pubblico sempre elevate, con alcune punte. Paolo Valerio, direttore Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia. Perfetti sconosciuti di Genovese, è stato uno spettacolo di grande successo, molto divertente, ma tra le nostre produzioni Il Mercante di Venezia con Franco Brancioroli e il grande Michele Placido nella Bottega del Caffè. Lo sguardo è già rivolto all'autunno, che vedrà in scena un progetto speciale, ancora Granbassi. La prossima stagione si aprirà celebrando il centenario della coscienza di Zeno con una grande produzione dello Stabile del Teatro Rossetti con la regia di Paolo Valerio. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Lo storico Enrico Cernigoi presenterà il suo libro La Brigata d'Assalto Triestina nella zona di operazione litorale adriatico, una storia militare 1943-1945. Appuntamento nella sala conferenza del gruppo ANMI di via San Francesco alle 18. Stasera a Ruda sarà intitolata La Piazza Pierpaolo Pasolini. Per l'occasione previsto nella piazza lo spettacolo teatrale Noi Non Popolani nella stretta del popolo contadino dedicato al poeta friulano. Lo spettacolo ideato dall'associazione Studio Giallo avrà la regia di Maurizio Soldà, che anche voce recitante per le parti in italiano, mentre Fabiano Fantini si occuperà di quelle in friulano. Autovie Venete ricorda che nel fine settimana verranno effettuati lavori di pavimentazione per circa 3 km lungo la carreggiata in direzione Trieste in corrispondenza del nodo di Villesse e che comporteranno alcune limitazioni alla circolazione lungo le direttrici Gorizia-Trieste e Venezia-Gorizia. In particolare tra le 22 di oggi e le ore 24 di domenica 21 chi proviene da Gorizia sulla A34 ed è diretto a Trieste sulla A4 potrà uscire a Villesse e percorrendo la viabilità ordinaria potrà riprendere l'autostrada a Re di Puglia. Chi invece proviene da Venezia ed è diretto a Gorizia potrà uscire a Palmanova e, percorrendo la viabilità ordinaria, potrà riprendere l'autostrada allo svincolo di Villesse. Si raccomanda inoltre, in particolare ai mezzi pesanti diretti verso il centro-est Europa, di procedere sulla A4, proseguire lungo il raccordo autostradale RA13 e di uscire a Fernetti. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Beyerz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie dell'attenzione. Appuntamento al Giornale Radio delle 15. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.